Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Dopo la nuova strage di migranti, questa notte nel canale di Sicilia, lo avete sentito anche in Europa, potrebbe arrivare la svolta. Jean-Claude Juncker, designato presidente della Commissione europea, starebbe pensando di inserire nella squadra per il nuovo esecutivo un commissario dedicato alla questione delle migrazioni. Finora il tema dell'immigrazione è solo una delle competenze del commissario agli affari interni in Europa. Ma intanto il dibattito è ancora acceso sul futuro della Gran Bretagna nell'Unione. Telefonata a sorpresa del premier britannico David Cameron a Jean-Claude Juncker. Dopo aver combattuto in ogni modo la sua candidatura, Cameron si è complimentato con Juncker, accogliendo l'impegno del lussemburghese di trovare un giusto accordo per la Gran Bretagna. Juncker ha detto di essere pienamente intenzionato a trovare soluzioni alle preoccupazioni politiche del Regno Unito, mentre in un'intervista al Financial Times è il ministro delle finanze tedesco Schäuble a definire inimmaginabile un'uscita britannica dall'Europa. E per l'Italia scatta domani il semestre di presidenza europea. Vigilia di semestre per l'Italia, con il premier Matteo Renzi che ha dedicato il weekend a limare il discorso che pronuncerà dopo domani pomeriggio a Strasburgo. Per intanto Renzi affida al sito della presidenza le sue prime linee programmatiche, che rilanciano l'idea degli Stati Uniti d'Europa e caricano sulle spalle della cosiddetta prima generazione Erasmus la responsabilità di spiegare ai propri figli la possibilità di rendere oggi l'Europa un luogo della speranza. Un messaggio dal chiaro imprinting federalista che certamente non piacerà alla Gran Bretagna, dove il ministro degli esteri William Hague ha ribadito che a decidere sul dentro o fuori dall'Unione saranno i cittadini, con un referendum fissato fra 3 anni. Sul fronte programmatico, nonostante il ritardo organizzativo del semestre, 3 appaiono le priorità che Renzi metterà in cima alla presidenza. Economia in primo piano, con la messa in atto dell'accordo per una maggiore flessibilità in cambio di riforme, che a sua volta dovrebbe portare allo sblocco di investimenti per la crescita e l'occupazione. Indiscrezioni di stampa parlano di un piano di investimenti da 240 miliardi di euro su 5 anni, d'intesa con la Francia, che riproporrebbe raddoppiandolo l'evanescente piano per la crescita approvato 2 anni fa dal Consiglio europeo. Seconda priorità l'immigrazione, con una gestione congiunta delle frontiere e una ripartizione del flusso di rifugiati. Terza la proiezione internazionale dell'Europa, con la questione energetica, le crisi internazionali e il trattato di libero scambio con gli Stati Uniti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'inflazione nella zona euro a giugno resta stabile rispetto a maggio, allo 0,5%, e questa è la stima flash di Eurostat. Da era lo 0,7%, dati europei nel giorno in cui per l'Italia, come sentivamo, l'Istat parla di stime preliminari di un rallentamento allo 0,3% annuo. E dall'Eurobarometro oggi anche altri dati, il rapporto sullo smaltimento dei rifiuti in Europa. Meno rifiuti e meno sprechi, a chiederlo sono i cittadini europei diventati negli anni più consapevoli dell'importanza del riciclo e di una gestione più attenta delle risorse. L'80% di loro infatti vorrebbe che il proprio paese sprecasse meno e che producesse meno scarti. A rivelarlo è l'indagine di Eurobarometro pubblicata oggi sulle attitudini degli europei nei confronti della gestione dei rifiuti. Un cittadino su 10 dichiara di riciclare, seppur occasionalmente, carta, cartoni, materie plastiche e vetro, mentre 3/4 separa i rifiuti pericolosi e le apparecchiature elettriche. Ci sono però ovviamente grosse differenze tra i vari paesi, con risposte che vanno dal 99% dell'Austria al 28% della Romania, e in fondo alla classifica si trova, e non è una sorpresa, anche l'Italia. Ma secondo il portavoce del commissario all'ambiente Joe Hannon ci sono segnali di miglioramento. L'Italia è sulla strada giusta, nonostante il forte divario che la separa ancora da paesi più virtuosi. Which has been improving in Italy, but Italy still has a long way to go to catch up with some of the best performing countries in the EU, but I think Italy is on the right track. Ma qual è la ricetta per incoraggiare la cultura del riciclo? Secondo la Commissione europea c'è innanzitutto bisogno di autorità locali per la raccolta differenziata, ma anche incentivi economici per chi mette in atto buone pratiche, e in generale capire che il riciclo genera posti di lavoro, può far crescere l'economia. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore, Roma. Ci fermiamo qui per il momento. L'Europa Radio 24, come sempre, vi aspetta. Effetto notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.